cane! E tagliere! E meglio Mari! Ehi, ciao Lu, buonasera! Perché non si acchiappe a molle? No, non ci posso adagio Mari! Sto prendendo l'antibiotico perché sono caduto a Ferragosto. Sto facendo una cura antibiotica, niente male. Ah, così è. Infatti strano. Avvio strano. Vabbè. Allora ti riposi un po' carino. E oggi che fai a caso? Oggi è una delle notte più calde. Sono 40, saranno 38. Cazzo, oggi le chicchine da fino, Oh, già l'ha detto, Che fino a domenica mi sembra che sia molto caldo, per cui, perché stamattina ero fuori, ma in macchina non si muoveva, ero tutto mangiato ieri alla bricolera, per carità, gatto, era un macello nero, e più per a casa morì. Infatti, per voi non dovete uscire, dovete stare a casa. Forza maggiore di uscire, quando ti serve qualcosa, sennò non è che la pappa arriva a casa, no? Lo so, basta uscire all'ora più fresca, no all'ora di punta, capito Gio Mari? Casino. Lui è in fase di guarigione, no? Si è battuto la faccia a terra, si è fatto l'occhio nero. Ho fatto tutte le visite, praticamente c'ho lo zigomo, una frattura allo zigomo. Ma dove sei, giù o a casa? No, giù, qua. Giù vicino a te, dai. Ho capito. Vabbè. Va benissimo, Lu. Io già ti sto arrivando bene, per cui... Ma lì, c'ho la ventola accesa. Ci sta bene, dai. Prima c'avevo il condizionatore acceso dalle 2:30 fino a poc'anzi. Ho spento il condizionatore e ho attaccato la ventola e già si sta bene adesso. E stavo guardando la TV, mi ascoltando. Vabbè, se c'è la cassa con il ventilatore acceso già va bene, sì. Ma il sole dipende da come lo metti, se è troppo freddo o no. No, non ci sta. Assolutamente, perché fa male. Anche io c'ho il ventilatore acceso qua, ma beccaggio, poi sono dalla parte della piazza, cioè dalla parte del terrazzo lì, e il sole picchia, fino a quando stasera, crocro, un casino a Gio Mari, un casino. Purtroppo è così, già viene il fresco piano piano, vedrai che al prossimo mese cominciamo a brontolare che vogliamo caldo, a vedrai. Vabbè dai, non è troppo no Gio Mari, mi sono accorto che troppo non va bene, dai, anche a me sta iniziando a dare fastidio. Ma c'è, magari tu sei più giovane, ma io cazzo, il caldo lo sopporto, cazzo, sembra che ti manchi l'aria cazzo. Però a certe volte bisogna resistere e tirare avanti piano piano, prendere meno caldo che possibile. Tanto stamattina l'abbiamo preso e cazzo era un caso a morire. Poi dal percorso, dalla bricca, mi arrivare a casa, guarda, non si vuole accanto arrivare mai in macchina. La macchina era bundendi. Ti credo, no, troppo caldo Gio Mari, poi il rifiutico, poi l'effetto si prende a prurito. Ok. Va bene, Luda, ci sento magari più tardi che mi devo rinfrescare un po', ok? Più tardi non ci sono, Gio Mari, voi scendete in campagna. Ciao, buona serata, alla prossima. Ok, ciao, allora ci sentiamo, vai. Saluta in casa e buon proseguimento in serata. Già ci sentiamo. Fa piacere, vai, ciao. Grazie altrettanto, ciao Gio Mari. Attenzione PMR, ho bucato, c'è nessuno? Chi è avanti? Pronto, c'è nessuno? IS0 Tripa chiama. IS0 Tripa chiama, portatile, mobile, marittimo. E chi è? Io ti sento. Ma in macchina sì. Stai arrivando. A Puglia. Ce ne sono per i porci. Andale, stiamo qui. e ho deciso di andare a birre per il tuo lato. Ah, te ho detto, si male. Ah, cavolo, il suo caso sta travagliando, ma insomma. Sta va bene, già va bene. A Puglia. Ecco, mette funziona. Io sono con l'anteriore piccolino lì dentro casa. Si può immaginare, eppure ti sento perfetto. Ehi, allora. Già va bene, no, abbiamo sistemato un po' le antenne di Tonino, poi abbiamo pranzato lì, siamo un po' riposati, adesso ce ne stiamo rientrando perché io devo rientrare a casa, c'è mia moglie da sola, capito? Ehi. Ah, con Tonino sei, salutamelo. Ehi, con Tonino io stamattina abbiamo fatto un po' di lavori. C'è Emanuele, mi stanno accompagnando a casa, che io feri. E poi basta, la giornata è andata, Giomarì. Ehi, nonostante che c'è questo caldo brutto, cazzo. Catta, bello, catta stamattina, catta. Tutta la mattina, catta, lì alla bricomera. La fila vera, gatto, boh, non vi so dirà, è tanto la gente, cioè, quelli che arrivano le biene, gatto, boh, la fila veramente a fondo. No, ma io non ci vado perché vai in fretta, Gio Maria, a comprare. Il problema poi è andare a pagare, capito? Dai, un'ora la caccia. Dai, un'ora la caccia. No, guarda, la verità, a casa Antonio si stava benissimo. C'è un bel ci ho messo a cucinare, a fare, abbiamo pensato, a me mi ha fatto il culo di gabbiano e a Tonino mi ha fatto il culo di cigna. Ci hai abituato a me, dopo era cresciuto il vino di bene, a chi uso il bruciatore, lo bruciatore uso, non cresce più peri, e abbiamo risparmiato. Ehi, no, ci ha fatto i capelli anche, e così. Abbiamo concluso, è andata la vita, perché domani gli altri fatti bene, dai, non andava bene. Ma tu te l'hai fatta a culo di gabbiano, te l'hai fatti. A te ecco c'è poco oggi, si è andato poi via. Non ti ha battezzato 20 euro. Cosa, Giovanni, cosa hai detto? Si è andato poi via, non ti va a essere 18 a 20 euro. A me mi pare più importante, perché ti sento a tratti, cazzo. Capita adesso, gabbiano te l'hai fatti. E io pure prima ti sentivo a tratti, però riuscivo a capirti. Non ti sentono, Giomarì. Giomarì, portate non ce n'è, io non le sento. Io lo sento, ma ha tratteggiato adesso, sta arrivando, ho capito lui. Va bene, mi senti, Luca? Io ti sento benissimo. Ehi, siamo in macchina, dai. No, forse ero in zona d'ombra e Giomarì mi è mancato un attimo. Ah, ho capito, ti ascolto bene, dai, un po', vabbè, tratteggiato, però ti ascolto bene. Adesso arrivando ci sopra, qua. Era grande, Giomarì. Siamo qua in Viale Sicilia. Allora ci sono ad ombra, per cui magari poco fa mi sentivo per quello. Bene, va, riprendi tu. Sì, vabbè, dai, sono andato, sto uscendo, dai. Ciao Giomarì e ciao Claudio. Alla prossima, ciao. Ciao Lu, ciao. Cosce belle, saluta mia Marina, gaffa. Sì, sarà fatto, ciao Claudio. Ciao. Ciao Luca. Ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao. Dai, vabbè, ci sentiamo dopo qua, dai, buon proseguimento. Saluta la cumbricola. Ehi a Giovanni, un saluto da Tonino e da Emanuele, dai, ci aggiorniamo dopo, vado a casa. Mi porto una bella doccia e poi ci sentiamo in radio. Gappa gappa, ciao. Okay, ciao. Giovanni, mi senti? Ciao Mari. Che? A me intendi, sì. È tutta a scariche, sì. A scariche? Sì, è tutta a scariche. Allora... No, non va bene, no. Se a scariche è tutto, non si capisce nulla. Adesso a scariche, mi sì. Ciao Mari. Ciao Mari. Ciao Maria. Ciao Mari, non mantenti. Ma già sentendo. Sono qui, c'è una bomba nuova, dai. Siamo una tappa Claudia. Già arrivi adesso. Andava bene. Sì, non andava bene, la forma non andava bene, poi puzza. Non si può uscire in giro, no, è un cane che si crepia. Dillo a me, però sei in giro. Senza integrare ci sto. Cosa vuoi sia? cazzo, che deve vedere a 40 gradi, cazzo, come c'è lì alla base di Oristano, cazzo, il tuo capitano, cazzo, sono tutti a cura a moglie, e a me pare che sto faticando di più domani, cazzo. No, sto andando a andare lungo domani, meno male. Va male, però è a so che a casa, per cui possiamo mettere i viaggi, ma in macchina sì, ma in macchina sì. Sì, ma sono che sta per casa, adesso mi accompagno a casa, tu io. Quindi posso fare da luce, se ho ghiacciata. Ah, che ghiacciata, se possibile. Va benissimo, dove sei adesso in questo momento? In via Sulzi. Sì, allora siamo vicini, gatto. Mi sei collegato di tutto. Siamo vicini, sì. So che cameretta è a Massa Lugosì, con l'antenino, eppure arrivi bene, dai. Noi l'antenino sulla capotta, dai. Va bene. Io ce l'ho sul bacchetto della scrivania, Mi manca un paio di balmi l'antenino. Che ha già fatto? L'antenino sono due balmi. Due balmi. Era già attaccata la scrivania, ha visto che va. Che c'è il mazzetto. No, lascia più piccola, sto usando. C'è bene quella lì. Un attimo, hai visto? Anche da magazzino. Arrivo anche a Claudio, puoi immaginare. Così che gli va bene ugualmente. No, ma. Oh! Va bene, va bene. Allora, ehi, ancora tenivo sto usando. No, perché con l'altro è più forte. Va benino, cacca. Una e due di stazionaria, così che va bene. No, bisogna comprare antenne, cazzo, basta appigliare un pezzo di filo, cacca. Un riadiarino, un piccolo, già l'hai visto, no? Come il magazzino, più piccolo di quello del magazzino, Sì, già l'ha visto. A Malagare invece, a chi sono l'addaglio. Vediamo qua, c'è il Claudio. Va bene. Allora, l'antenna l'avete piazzata, no? Sì, tutto a posto, Giovanni, tutto a posto. Sta qui allora, va bene. Va benissimo, almeno poi si può chiacchierare benissimo. Almeno qualcosa in più li fa. Lo credo bene, certo, devo grido. Come mi ascolti, Giovanni? Ah? Come mi ascolti? Va bene, è normale, capito? La radio è bella piena, per cui va bene. Il capo, la sua mano bene, sono rientrato a casa sua. Sono già sulla Budi. Va benissimo, dai. Va benissimo. Adesso voglio provare da casa, però. Da casa esci bene ugualmente, cazzo. Oh, perlomeno. A parte sta vincendo bene. Vabbè, adesso proviamo con l'antenna che abbiamo spostato. È più libera adesso. Vabbè. Ma se diciamo che ci presto c'è più in mano, gatta, boh. Lo so. Dai, manco un po' di tempo. Ho un po' di spese, diciamo, per il momento, Giovanni. Ho capito. Piano piano. Chi va piano va sale e va lontano, Quando si può, si può fare, quando non si può bisogna lasciarla stare. Chi si accrebbe da Lugaggio? Va. Quel percorso sento a tutti io, Sì. Davvero, anche con l'antennino lo sento, hai visto? Arrivo anche da Claudio da qua, con questo antennino, due palmi, È lunga due palmi. Certo. Due fatti c'ha, due fatti è qualche cosa, per cui ti puoi immaginare. Arriva. Siamo vicini, capito? Lì e là siamo vicini. per quello che ci sono problemi, certo. Mi sentivano da campagna a me e i lavati di Tanica Malafede, si può immaginare, dietro il pollaio, il vecchio pollaio, si può immaginare. Sì, qui tanto quella zona pure. Dai, invece ha sentito, mi ha alzato, comportate, ma senti, con l'attino suo, il gommino, mi sentivano tutti, si può immaginare. E tu sei vicino qua, capito? Linea d'aria, cazzo. Siamo vicini. Ma Manuel ci che accendeva, boh. Manuel, e c'è acqua la moglie, e addirittura. Cazzo l'ha fatto, ripeto cosa si è già in doccia. L'ho finita la se sotto la doccia, non puoi immaginare. Cazzo. Allora si è posato e si è rilasciato, cazzo, ma. Per riposarti un poco, da lunga, a cavarsi su gas, un capigliato. Ma cosa abbiamo trascorso una bellissima giornata, fate scherzi. Sono stato veramente bene, guarda. Tu hai cucinato Claudio? Aspetta un secondo. Ha fatto anche spaghetti col pomodorino e basilico e peperoncino. Arrivato, sì. Sto cambiando piano piano che è tutto a buchi, sto cavolo di strada, che mi manca, se no, ancora 50 metri. Allora, peppa! Ma guarda proprio, La salvare, ha sentito che si metteva subito sotto la doccia, cazzo, dai. Lascialo rinfrescare, magari la buia si fa sentire, dai. Ci sentiamo dopo, Torino. Ok, Giomari, dai, 10 minuti io sono di nuovo in frequenza, dai. A dopo, ciao. Ciao, ciao, Giomari. Tonino, attento Tonino, attento Tonino. Manuele. Tonino. Toni. Toni. Toni. Tonino, Manuele, Tonino, Manuele, ci sei? Sono in ferie. Meglio, è tempo di ferie. Vabbè, Antone. Ah, dimmi. Ho detto, vabbè, com'è, tutto a posto? Sì, vabbè, a parte Simona che non sta bene, quindi non sto uscendo per niente, capito? Vado a fare la spesa e poi dite a casa, eccetera, eccetera. C'è problemi alle gambe. Io penso questo coso di... Vabbè, so che c'è quel caldo, è un casino. Secondo me è quello che sta facendo male, alle gambe. Alle gambe, sarà la circolazione. Anche i farmaci che sta prendendo, cosa vuoi fare? No, io sono ancora in campagna, sino a fine mese, poi ci rientriamo, se cambia il tempo, se no me rimango qua. Ti conviene rimanere lì, che c'è il coglione del virus qua a Sassari, capito? Se arrivo domani, sei fregato, cazzo. Ma se trovi un collega romano, lì, dici ciao, io sono diventato da Roma, lì, piacere... Com'è lavorato bene in questa vita? Tu dici sì, pronto, tac, e ti pigli le cose, sei positivo, sei fottito, quindi non ti conviene più, lascia perdere. Ah, fanculo, romani, andane, no, sono amici miei romani, no. Assolutamente, no, non ci viene nessuno qua a Roma, manco la mia famiglia ci sta venendo, figurati. Siamo io, mia moglie, mia figlia, mio genero, e boh, non viene nessuno. Sono tutti romani quelli positivi, figurati, tutti diventati da Sardegna, tutti romani sono, chissà perché, cazzo. Sono partiti tutti positivi già da lì, hai capito? Sono arrivati qui in Sardegna, hanno contaminato gli altri, quindi a un certo punto incoprono i sardi, come fa lui di solito, capito? Prima vengono qua a romperci le palle, in Costa Smeralda, capito? Tutto il gol per l'Antonello, L'ambulanza, perché poveraccio non si è fatto la vacanza, lui e la ragazza. Guarda, forse è stato caso che quel tipo d'ambulanza aveva pigliato la macchina da soglia, aveva pigliato in 4 o 5 ce l'aveva buttata dentro un bordo e aveva buttato un fuoco, come minimo, guarda. E ha detto, guarda, non ci torna più in Sardegna, vattene via. A parte andando a piedi. Andando a piedi, rimandiamo. Vediamo un po' se c'è Tonino, Manuele. Tutto colpa di Antonello e... oh, qua. Avvio, ciao, bello bene. Ah, meno male ti sento di qua, ti sento. Non mi senti perché? Sì, anche io ti ascolto. Lo sai che io non ho la verticale, sto usando l'altra. L'ho tolta la verticale perché ho avuto problemi con un lineare. E Giovanni me lo brucia a burro, ha bruciato una distanza, l'ha bruciato. Per colpa dell'X300, che è pensata. Fanculo a me che l'ho messa. Ma Tonino, ho sentito se è qua. No, l'ho chiamato ma non mi ha risposto, io mi sono fatto la doccia, la barba. Bello che ci sei matto, bello fresco, gli tu dici che mi boccio, oggi chiamato, bello non vero. Perché forse c'è uno che vuole entrare. Tu chi è? Avanti. Quello con lo giotto. Sì, lascia lo giotto, purtroppo non mi dice buon ghiaciobra. Ma quindi non l'hai sentita allora ancora? No, ancora no, ancora no. Grazie al gatto, Manuel. Mamma mia, come sto? C'è un caldo da morire anche qua, cazzo. Si sta veloce bene lì. Ehi, dentro casa, sì. E sei pure ragazzi di su lì. Ehi, ma qua non si sta bene neanche dentro casa. È tutto chiuso. Con le persiane abbassate. Ma non entra un filo d'aria, cazzo. Ho 3 ventilatori accesi. Dopo caldo, sa, e poi quando aveva una certa temperatura ti arriva l'aria calda e buh. No, non ce la fa a battere, non ce la fa, se ne è andato buh l'usori, adesso vediamo più tardi, infatti non ho fatto uscire manco i cani ancora, che ora so, cazzo sono già le 7:05, minchia, e stanno schiumando, se non ho bevuto mai mia moglie due secchi d'acqua da 25 litri, cazzo. Cazzo di mamma mia. Tanto di tua mamma che ti cani sono diventati due gammelle, no? Cazzo di allogrini, tanto lo cacchio non è nulla. Ma il piccolo a Filippo è sempre dentro casa, sempre con Riccardo, col ventilatore sopra. Ma gli altri che sono fuori, anche se sono al fresco, ma il vento è caldo, non c'è niente da fare. Già c'è Antonello, Pomponio. Al fresco, Pomponio. Al fresco? E poi posso andare col saldatore? Sistemare il baracchino a 35 gradi l'ho fatto io con la lente, cazzo mi scendevano le gocce nel coso, mi scendevano, a un certo punto ho dovuto mollare. Ok, noi siamo abbellati un po' con i soli, dai. Ma che? E noi abbiamo piazzato l'antenna a Tonino nuova, allora spostata, piazzata, no perché c'ho l'altra radio accesa, piazzata, spostata, calda arena mobiliato, da stamattina alle 9:30, che ora alle 10 abbiamo iniziato, 10:30, fino alle mezzodì e mezzo, quindi poi abbiamo staccato, abbiamo pranzato, ci abbiamo messo a posto tutto, ci siamo rilassati e siamo rientrati, quindi anche noi abbiamo fatto il nostro, Antonè. Ah, meglio così, quindi avete pensato anche l'antenna per la VLU? E quella per qua, messa bene, sistemata. Adesso sto facendo troppo caldo, appena abbassa sto caldo tiriamo su anche quella della 27. La piazziamo bene, capito? Tonino! Lo facciamo allora, Ocra, fammi come ti arrivi. Dice secondo me si è caramaiato, si è coccato anche in camera da letto, quello vecchio, quello vecchio, ciu ciu. E vabbè, già vedrà in camera, vedrà. Eh sì, lo sta facendo la doccia e si sta accorciando le sopracciglia. Cazzo, ve li faccio io. Cazzo, ma che? Manuele ti ha fatto bullo Riberi, Antonè. A me e a Tonino, ma belli, Ah, quindi è diventato parrucchiere. Parrucchiano. Cazzo, parrucchiano. Ma che? A me mi ha fatto a colla di rondine e a Tonino a culo di scimmia. Ah, già va bene, visto, dai. Così è bello. Comunque già le stanno bene, dai. Sì, guarda i miei ce li ha, così voglio i capelli così già corti, non a 0 a 0. Comunque la misura è giusta, Manuel, va bene. Mi ha fatto la barba, sono di lusso. Ma non bene, benissimo. andano i veri a 3, vanno bene a 4, ah sì, come ti ha detto Edo, non ve la vasi a manca a tagliarli. No, no, a 3 così va bene. A 3 va bene la misura, mi pare sia quella che uso anche io, a 3 o a 4, quando sono più lunghi, ma hai visto io non ne avevo, me li avevo già fatti la settimana scorsa, però me li hai puliti dietro, almeno sono più ordinati. Che se dove non è gocchi gocchi, se dove non è se vai a un cespuglio da ritto. E si ho i vasetti, vabbè i vasetti mentre l'Enton John. E chi su è? Cazzo due cespugli va via laterale, cazzo due si c'è pedonace, brava. Nonino, oh, già mi avessi rispondi. La gente che prova a chiamarlo. Prova tu, io ho il telefono in carica. Prova a chiamarlo e dire che siamo qua in PMR. Poi ero messo il 23, stavo salutando a Tore e a Bacchisio. Saurio! Oh. Ha detto che Bilazzese non intenda nessuno. Bilazzese non intenda nessuno. Secondo me non intenda nessuno. Cado è l'antenna. E che canale da Giobù, se la mi va vedendo i rivi. Allora l'hai sfottato di. Mi arriva nel Donino. Sì. 25. Tori. Manuel. Ehi, avvisi? Sì, sì. Ehi, ah. Lo senti qua? Alla grande, due più. Tori. Io non intendo più. Successo. E cosa ne so? Due più arriva. Segnale due in più ne ha. Ma non lo sento più. Tonino. Ma cosa tocca da va? Ah, ragazzo, ne giochi. Non ha detto, Manuel, mi senti? Arrivava due segnali in più. Arrivava bene. Mamma non intendo più, però. Beh. Tonino, ma noi a posto lo split, no? Cosa ne so? L'antenna non abbiamo fatto niente di che, assolutamente. È spostata appena appena dal tubo, ma è sempre lì. E beh, l'antenna è a posto. Sicuramente il portatile ha toccato qualcosa, magari come ce l'aveva in macchina. Telefono, aspetta. Ciucucciù. Guarda adesso ci sono. Ehi, adesso sì, ok, lascia tutto così. Dai. Lo senti qua? Ehi, alla grande, mi senti tutto lì? Io non sento niente, mi. Non sto sentendo niente, boh. Manuel. Ehi, mi senti? Boh, qua. Arriva, come mai a me non mi sente, boh. Manuel. Non intende manco a me. Sì, te devo squarciare, metto da uno. No, qualcosa è successo lì. Non abbiamo toccato niente, ho controllato solo se la potenza era giusta e boh. Ma c'è la scorcia evidentemente a manetta, capito? E allora è bruciato le finali, io sono Tiglia. Non dice per nulla quell'apparecchio. Con cui si... Tonino! Entra nel menu, guarda dove c'è scritto menu, guarda quanto è lo squelci. Con le frecce. Vai dove c'è scritto squelci. 1, 2, 3, non sento niente. Parla Tony, diglielo a Claudio. Non sento nulla, solo il telefono mi sento. Ma come mai? No, niente lì, abbiamo solo spostato l'antenna di un metro, cazzo. Ma cosa ne so qui io, Claudio? Io non sento niente. Cazzo, come vale il cazzo? Molto strano. Deve, ma neanche a Manuele senti? No, nulla, non sento niente. Non senta nessuno, neanche a me. Ma se no è che ha bruciato il finale, no? No, se lo stavamo usando in macchina. E cosa ne so qui? È quello che gli ho detto anche io. È possibile, perché quell'antenna non è a stazionarie. È tarattissima, perfetta. Cazzo, ero tu le balle, tocca a faranno tutto d'ora domani. Ma non è che ce l'hanno stazionarie o nell'antenna o qua? No, ma la stavo usando io, l'ho usata in macchina, c'era un paio di mesi fa, poi ce l'avevo da parte, capito? E stavo usando il veicolare io, non è successo niente. Prova a parlare, Tony. Però, strano, Manuel, perché io la radio FM la sento, quindi, non lo so. Ma perché l'FM è un'altra cosa. Questa è un'altra frequenza. Mi sono sirena, ho la sigla, Sì, io ti sento. Certo, anche io lo sento. Allora va a bruciare la ricezione. Ma da quanto brucia la ricezione, oggi ho preso? C'è così non ha toccato nulla. E cosa ne so, Bucca? A uscire esce, perché mi sono sireno. Allora, sì, che c'è lo squelch troppo alto. Prova a parlare, Tony. Aspetta un attimo, Cla, prova a parlare. Mi senti? 1, 2, 3. Sì che ti sento. E io non ti sento. No, non si sente. Adesso mi senti? Tanto io ti sento, Santiago 7. Boh. Ma no, dille che qua arriva a 7, è aumentato addirittura di 2, da 5 è passato a 7. Amore. C'è lo squelch evidentemente elevato, se no ti avrebbe ascoltato, Tony. Oh, Cla, non ti preoccupare. C'è qualcosa nel ricevitore, Tonino? Perché io ti sento, addirittura è aumentato di 2 segnali. E parlo un cavolo, che è scomparso di colpo. Ma dove esci in basso di colpo? Qua stai arrivando benissimo, è che non mi intendi tu? Boh, dice che schiaccia quell'arancione e poi sparisce, Cla. Che va a schiacciare quell'arancione? Dove cazzo c'è scritto? L'arancione no, il PTT. E l'altro è... Boh, Asco, se mi senti va sul 23, o sul 10, va sul 10. Sul 10 c'è Gianni. Vai al 23. Ho 23, vai al 23.